24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Ben trovati da Raffaella Calandra. In primo piano in questa edizione di 24 ore in Europa, la Grecia col via libera al piano sul debito privato che fa volare le borse, poi il caso dei due ostaggi uccisi in Nigeria durante un blitz inglese e quindi le proteste della Cina per la tassa sui cieli voluta dall'Europa. Iniziamo dunque dalla Grecia che dice sì al piano sul debito privato spingendo le borse europee. Il quadro da Vittorio Darold del Sole 24 Ore partendo dallo swap. Sì, è uno scambio, è un concambio, si deve appunto decidere di prendere dei vecchi bond in possesso dei risparmiatori e convertirli in altri bond a più lunga scadenza, però perdendoci il 53,5% del valore facciale. Quindi non è una bellissima notizia per i risparmiatori che hanno preso questa decisione, ma ci sono anche alcuni che non hanno aderito, e questo però lo sapremo solo domani mattina alle 7, quando Atene darà i risultati ufficiali dello scambio, e immediatamente dopo l'Eurogruppo deciderà di dare la tranche del secondo piano d'aiuti di 130 miliardi, quindi è un passo verso, diciamo, la giusta direzione, quindi quella di evitare il default greco, ma attenzione, restano ancora delle incertezze perché Atene a questo punto può decidere o meno di applicare delle cosiddette clausole collettive di azione collettiva che in qualche modo potrebbero obbligare anche a chi non ha accettato lo scambio ad essere nella partita e quindi nelle perdite. E l'ottimismo per la Grecia, insieme al dato dello spread in calo, spinge le borse del vecchio continente. L'ottimismo sul buon esito della ristrutturazione del debito greco ha sostenuto i listini europei per la seconda seduta consecutiva. A Piazza Affari il FTSE Euroshare e il FTSE MIB hanno guadagnato l'1,62%. La corsa dei listini milanesi è stata però frenata dallo scivolone dell'Enel, che ha perso il 5,66%, terminando la giornata in coda al paniere principale. Nel giorno della presentazione dei conti 2011, le quotazioni del gruppo hanno risentito in modo particolare del taglio della politica dei dividendi per i prossimi anni. Enel distribuirà ai soci almeno il 40% degli utili contro l'attuale 60%. Maglia rosa di giornata è stata invece Impregilo più 8,8%, mentre il mercato si attende scintille all'assemblea di maggio. Il gruppo Saline ha infatti proseguito la propria ascesa nel capitale di Impregilo e sembra pronto a dare battaglia alla famiglia Gavio per il controllo della società. Paolo Paronetto da Radio Corp per Radio 24, Sole 24. Air France KLM non ha in programma di acquisire il controllo di Alitalia attraverso acquisti di quote azionarie o di altre operazioni finanziarie. Lo ha detto il presidente e amministratore delegato del gruppo francese Jean-Cyril Spinetta. Voltiamo pagina. In Nigeria un ingegnere italiano e uno inglese, rapiti da bande locali, sono stati uccisi durante un blitz delle teste di cuoio anglosassoni. Anna Rita D'Ambrosio. Un ostaggio italiano ed uno britannico sono stati uccisi dai loro sequestratori in Nigeria durante un'operazione condotta dalle forze di sicurezza del posto insieme a quelle di Londra. Franco Lamolinara e Christopher McManus erano stati sequestrati il 12 maggio del 2011 a Breaking Cabin. La notizia è stata comunicata, come dicevi, dal primo ministro britannico Cameron al presidente del Consiglio Monti mentre era sull'aereo di ritorno da Belgrado. Cameron, si legge poi in una nota che ha diffuso Palazzo Chigi, ha espresso a Monti il cordoglio per la vittima italiana, rammaricandosi del drammatico esito dell'iniziativa militare che era stata decisa solo dalle autorità nigeriane e britanniche nella convinzione che fosse l'ultima opportunità per salvare la vita degli ostaggi. Quindi le autorità italiane in realtà sono state informate solo ad operazione avviata, appunto perché si temeva per la vita degli ostaggi. Parliamo ora dei cieli d'Europa e della tassa decisa dalla Commissione Europea sugli aerei. 10 Airbus a 380 che sono bloccati, sa giusto alla veille del Consiglio Environnement di Parigi. 10 Super Jumbo a 380 e 35 a 330 lungo raggio bloccati per ribadire il no di Pechino alla carbon tax europea. Un portafoglio ordini da 9 miliardi di euro congelato con un ordine che arriva dal governo, dove Pechino controlla le tre maggiori compagnie aeree del paese. E allora è Louis Gaulois, numero uno di EADS, il colosso franco-tedesco-spagnolo di aerospaziale difesa che controlla Airbus, ma non solo, che chiede a Bruxelles di fare marcia indietro, di stralciare il progetto firmato Connie Hedegaard, commissaria danese che sogna un'Europa all'avanguardia dell'economia verde, ispirata al modello proprio che il suo paese anticipa. Cina, ma anche India, Russia, Stati Uniti, tutti uniti nel dire che Bruxelles non ha il diritto di imporre tasse a voli che allo spazio UE non sono destinati. Obiezione respinta già a dicembre dalla Corte di Giustizia e dunque tassa confermata. Ora però, proprio alla vigilia di un nuovo Consiglio UE sull'ambiente, Pechino sembra aver deciso di affidare proprio all'industria europea la difesa della sua posizione, con una minaccia che vale miliardi e allunga lo spettro occupazionale ben oltre le ali della presidenza danese, in scadenza a fine giugno. Gigi Donnelly, Radio 24, Sole 24 Ore. L'Unione Europea si sta attivando per trovare una soluzione soddisfacente. La responsabile per la politica estera, Catherine Ashton, risponde così alle sollecitazioni degli europarlamentari italiani per un intervento di Bruxelles a favore dei due Marò arrestati in India. L'Ashton ha assicurato che attraverso la sua delegazione inviata a New Delhi è al lavoro per sciogliere il nodo. La più cara resta Londra, seguita da Parigi. La più conveniente è Lione. In Italia è la capitale, Roma, la città dove è più costoso vivere in affitto. Traccia questo quadro la Camera di Commercio di Milano al MIPIM di Cannes. Il capoluogo lombardo, in una statistica delle locazioni, si pone al 23esimo posto tra i 32 centri europei più grandi. Allargando a tutto il mondo la prospettiva, per gli affitti la città più costosa è Hong Kong, seguita da Londra e Tokyo. Ancora cronaca, vasta operazione internazionale contro la pedofilia online. Serpeggiavano tra social network e siti online, una rete mondiale di pedofili che la Procura della Repubblica di Firenze ed Eurojust hanno stroncato con l'operazione Nanny, partendo dalla testa, un fondatore italiano che era riuscito a infiltrarsi in 28 paesi, tra cui Francia, Portogallo, Belgio e Stati Uniti. Oltre 700 adepti, migliaia di frequentatori sparsi in tutto il mondo aderivano attivamente al social network oscurato che aveva il server a Dallas in Texas, immettendo foto e video pedopornografici anche prodotti da loro, e si erano registrati fornendo generalità personali, account di posta elettronica, nonché sottoscrivendo un documento in cui accettavano addirittura consapevolmente di iscriversi e partecipare a una rete dedita alla pedopornografia. Sul social network però agivano con nickname. 10 gli arresti in Italia, Stati Uniti, Francia e Portogallo, 112 gli indagati. L'inchiesta è nata un anno fa dalle denunce di Telefono Arcobaleno e ha visto lavorare fianco a fianco il nucleo interforza investigativo telematico di Siracusa con i colleghi statunitensi di NCIS. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Fiamme nella centralissima Place Vendôme a Parigi. Una spessa nuvola di fumo ha coperto ieri la piazza a partire dal pomeriggio, avvolgendo soprattutto l'hotel Ritz. L'incendio infatti sarebbe partito proprio dai sotterranei dell'albergo e per via del fumo è stata chiusa per ore la circolazione della zona. E ora vi raccontiamo un esperimento. E se un giorno tutte insieme le donne non andassero a lavorare, cosa succederebbe? Lo ha sperimentato la Germania. Quante siamo? Dove siamo? Cosa facciamo? Ve l'immaginereste un mondo del lavoro senza donne? Ancora troppo poche, si dice spesso, poco pagate, poco utilizzate, poco gratificate. E allora immaginiamo di far scomparire per un giorno le lavoratrici femminili. Come in una bolla, niente colleghe in giro, niente di niente. Una provocazione lanciata dalle giornaliste della redazione online della tedeschissima Bild. Oggi, nella sede del quotidiano più venduto in Germania, lavorano solo uomini. Le donne tutte a casa per un giorno. In massa hanno chiesto per oggi un giorno di ferie. E l'insolita richiesta si è trasformata in un'assenza in massa, assordante, o meglio, silenziosa. Che sospiro di sollievo, magari penserà qualcuno. Ma poi, in questo modo vogliamo capire quanto ci mancano le donne. È stato l'appello dei colleghi maschi che hanno lanciato anche un sondaggio online ai lettori. A rispondere però le colleghe donne non ci saranno. Toccherà a loro spiegare. Una città senza donne, una città senza amori, e porta fortuna. Una città senza... Anna Migliorati, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.